dice gli vivi, agisci come vuoi. Oh oh, e disse il saggio un giorno mentre stavo per i fatti miei. Ehi ehi, ma giuro di averci provato, a volte ci sono riuscito. Oggi però mi domando chi fosse quel saggio, lo sai. E corri, corri, corri, pazzo e schiavo della società. E disse il giusto un giorno mentre stavo in intimità. Mamma, ma giuro di aver riflettuto, mi sono concesso del tempo. Oggi però mi domando chi fosse quel giusto, lo sai. Yeah.